Mix 24, i gialli della storia. 3 ottobre 1935. 110.000 soldati italiani e 50.000 truppe coloniali varcano il confine tra l'Eritrea, colonia italiana, e l'Etiopia. Si tratta di un'invasione su vastissima scala, con tutti i connotati di una guerra moderna: aerei, mezzi corazzati e artiglieria pesante. L'Africa rappresentava per me qualcosa di grande. E insieme a loro soldati delle colonie italiane, eritrei, libici, somali. Li chiamano Ascari, dalla parola araba che significa soldato. 350 carico, sparare. Dall'altra parte le truppe abissine. Provengono da ogni villaggio dell'Etiopia. Guidate dai loro capi tribù, i Ras, si battono con determinazione e coraggio per respingere l'aggressore. Vedemmo nel cielo quelli che ci parvero degli enormi uccelli, uccelli che facevano un gran rumore. Il 2 ottobre del 35 Mussolini da Piazza Venezia annuncia la mobilitazione, ha inizio la guerra per il posto al sole. L'avventura africana durerà 7 mesi, sarà una guerra feroce con migliaia di morti. In Italia la conquista dell'impero si trasforma in una straordinaria operazione di propaganda, in un evento memorabile. Ma dietro a questa facciata si nascondono stragi cancellate, orrori dimenticati, gas letali usati contro i civili. Oggi a Mix 24 raccontiamo quei giorni con le testimonianze degli uomini che si combatterono in quella situazione. E per raccontare la campagna di Etiopia ascoltiamo inoltre le voci di due storici, Nicola Labanca dell'Università di Siena e Richard Pankhurst dell'Università di Addis Abeba. Le ambizioni coloniali dell'Italia in Africa orientale non nascono col fascismo. L'Italia aveva infatti già colonizzato l'Eritrea e parte della Somalia negli ultimi decenni dell'Ottocento. Nel 1896 il governo Crispi aveva tentato di conquistare anche l'Etiopia, che confinava con le due colonie. Questo tentativo era finito nel disastro di Adua. Un contingente italiano di 16.000 uomini veniva annientato dalle truppe etiopiche. I governi che si succederanno a quello Crispi non dimenticheranno mai la disfatta di Adua. Ancor meno la dimenticherà Mussolini. Nel 1932 comincia a maturare in Mussolini l'idea di una nuova grande impresa coloniale. Obiettivo l'Etiopia e la creazione di una grande Africa orientale italiana, la quale, insieme alla Libia, ottenuta con la guerra italo-turca del 1911, avrebbe dato vita all'impero. Mussolini incarica il quadrunviro generale Emilio De Bono di predisporre un piano di invasione che, però, resterà nei cassetti. Che cosa successe tra il 1932, data del piano, e l'ottobre 35, invasione dell'Etiopia? Beh, intanto la volontà mussoliniana di avere maggior prestigio internazionale e soprattutto proprio a livello di politica internazionale. Nel marzo 1933 a Berlino era salito al potere Adolf Hitler. Hitler, l'allievo di Mussolini, rischiava in questo modo, con la sua forte Germania, di essere più bravo e più importante del suo maestro. 5 dicembre 1934. Un incidente per l'approvvigionamento di acqua alle fonti di Wal Wal, sul confine tra l'Etiopia e la Somalia italiana, è il pretesto che Mussolini coglie per accelerare i tempi della guerra. L'Etiopia risponde anche ad altri obiettivi del duce. È l'ultimo territorio di rilievo non ancora colonizzato da altre potenze europee. Si presenta come un obiettivo facile. Sarà l'uomo nuovo, forgiato dal fascismo, a lavare l'onta di Adua. Nonostante venga ritenuta e presentata come una guerra facile, si assiste a uno spiegamento di forze eccezionale. Già dal punto di vista militare, se ad esempio poche decine di migliaia di soldati avevano aggredito l'Etiopia ad Adua, Mussolini mise in campo 500.000 di persone, 500.000 di italiani, militari e militarizzati, lanciati contro l'Etiopia. Non era mai successo in nessuna guerra coloniale, europea, contro qualunque dei poteri tradizionali africani. L'Italia ammassa truppe a nord, in Eritrea, e a sud, in Somalia. Mussolini doveva vincere in pochi mesi quella guerra. L'aveva lanciata appena finita la stagione delle piogge, nell'ottobre 35, e doveva vincerla in maniera definitiva prima dell'arrivo dell'altra stagione delle piogge, appunto verso maggio-giugno. Quindi la tecnologia, insieme al numero dei soldati, era funzionale, era necessaria per vincere la guerra in breve tempo. Nella guerra italo-etiopica del 35-36 l'aeronautica ebbe un ruolo di rilievo. Dall'alto essa osservava le mosse dell'esercito tradizionale etiopico. Ma al di là di questa realtà militare, eccezionale fu la propaganda che in Italia fu svolta a proposito dell'aeronautica fascista in Etiopia. La guerra d'Etiopia deve essere assolutamente vinta, e sarà vinta, ma costerà moltissimo. Non soltanto in termini di vite umane, ma soprattutto in termini di risorse economiche. Oltre alle quantità di armi, sbalorditive sono le cifre riguardanti l'apparato logistico e di approvvigionamento. L'imperatore Haile Selassie mobilita 300.000 uomini, muniti in gran parte di armi primitive. Contro un esercito dotato di mezzi moderni, sono destinati a soccombere. A quell'epoca il potere era nelle mani dei signori feudali o semifeudali che governavano le province. Quando scoppiò la guerra, vigeva ancora il sistema di potere tradizionale. E furono proprio i vecchi capi a organizzare la difesa contro l'invasione. All'inizio essi in grande maggioranza si schierarono con l'imperatore, ma dopo la sconfitta molti passarono dalla parte degli aggressori. Vedere soprattutto un fatto nuovo nella storia dell'umanità: il popolo italiano che è il protagonista della sua storia. A Mussolini però la sola vittoria militare non basta. Vuole che tutto il popolo italiano si senta direttamente coinvolto. E sulla guerra voluta dal popolo tornerà più volte nei suoi discorsi e nei suoi scritti. Per il Duce, la guerra d'Africa è una guerra di civiltà e liberazione. La Roma fascista di Mussolini dovrà avere la stessa missione della Roma dei Cesari. Roma dovrà tornare ad essere un impero. Le direttive impartite alla stampa sono precise e severe. Vanno pubblicate delle fotografie solo per dimostrare che l'Abissinia è un paese arretrato, è un paese di straccioni e di banditi. Non si deve quindi parlare né di Stato abissino né di forma civile dell'organizzazione abissina. Capitale sonnecchiante, con le sue misere baracche e i rozzi tukul, dove la vita si svolgeva lenta e primitiva, e 100.000 esseri umani, vero branco di schiavi, languivano nell'abbandono e nella sporcizia, all'ombra e nel terrore della corte tafariana. Poveri bimbi intristivano nelle malattie e nel sudiciume, e nei vecchi mercati carovane disordinate, sfuggite ai predoni, portavano i magri prodotti di una terra trascurata. Il 3 ottobre 1935, 100.000 soldati italiani, con l'appoggio di aerei, artiglieria e mezzi corazzati, e affiancati da un alto numero di truppe coloniali reclutate nelle colonie italiane, Eritrea, Somalia e Libia, sotto il comando del generale De Bono, iniziano ad avanzare dall'Eritrea senza una dichiarazione formale di guerra. Il legionario Romeo Polidoro si trova sul confine la notte prima dell'invasione. Ci venne a visitare il Carlo del Croà, il generale Carlo del Croà, che era cieco, senza bracci e con una gamba sola, l'altra ce l'aveva di legno, e ci disse: ragazzi, dice, da questa notte voi varcherete i confini, il Mareb, c'è l'ordine di mantenervi corretti verso questa povera gente. Contemporaneamente, dalla Somalia italiana avanza un contingente agli ordini del generale Graziani. Di fronte ai mezzi moderni dell'armata italiana, gli abissini, armati in modo primitivo, non possono opporre alcuna resistenza. Io, come ufficiale, ero armato di un fucile. I miei uomini, invece, erano per lo più armati di scimitarre, lance e scudi. Le truppe italiane provenienti dall'Eritrea, in pochi giorni passando per Adigrat, occupano Adua. In Italia l'entusiasmo è alle stelle. L'onta del 1896 è lavata. Segue a distanza di pochi giorni la conquista della città sacra di Aksum, la città dei 100 obelischi, la capitale religiosa dell'Etiopia. Le ingenti forze messe in campo, che nei piani di Mussolini dovevano servire a garantire una vittoria rapida e sicura, rappresentano un problema sul piano logistico. L'Eritrea ha un solo porto, Massawa, troppo piccolo per una flotta di centinaia di piroscafi. Le strutture sono inadeguate, mancano banchine, piazzali, gru per accogliere uomini, mezzi, animali e vettovaglie. Manca il personale specializzato. Oltre 60 navi restano alla rada per settimane con tutto il loro carico. Dopo i primi successi, a novembre il generale De Bono è costretto a fermarsi. L'impraticabilità delle strade provoca continui guasti ai camion e ai blindati. Il carburante scarseggia. Dalle retrovie tardano ad arrivare rifornimenti e pezzi di ricambio. Mussolini è impaziente. Nessun contrattempo è tollerabile. Nessun ritardo sulla tabella di marcia giustificabile. A farne le spese sarà De Bono. Mussolini, che ha voluto il quadrunviro a capo della spedizione proprio per sottolineare il carattere fascista dell'impresa, non esita a sostituirlo. Il 17 novembre il comando viene affidato al generale Badoglio. Nonostante le sollecitazioni di Mussolini, Badoglio prende tempo e chiede ulteriori rinforzi prima di riprendere l'avanzata. Ciò che per lui conta è la vittoria finale. Si preoccupa perciò di rinsaldare le posizioni conquistate e di risolvere i problemi logistici. Nel frattempo i RAS abissini, alla testa di circa 140.000 uomini, lanciano una pesante controffensiva. Per un momento si teme addirittura che le truppe etiopiche possano aggirare i reparti avanzati italiani. La reazione di Badoglio è durissima. Getta in battaglia tutti i mezzi di cui dispone. 120 aerei bombardano senza tregua per giorni e giorni le prime linee e le retrovie. Vedemmo nel cielo quelli che ci parvero degli enormi uccelli, uccelli che facevano un gran rumore. Non avevamo mai visto, ma nemmeno sentito nominare gli aerei. Man mano che si avvicinavano, si abbassavano e facevano un frastuono sempre maggiore. Poi cominciarono a buttare delle cose che sembravano delle palle bianche. Capiranno che sono terribili macchine di morte quando a migliaia moriranno sotto i bombardamenti. Badoglio se ne serve anche per spargere gas asfissianti e vescicanti come l'iprite e l'arsina. Di questi massacri niente trapela in Italia. La censura di regime attua una stretta opera di controllo su qualunque azione delle truppe italiane che non sappia di eroismo, coraggio e sprezzo del pericolo. Tanto più se qualche impresa può essere attribuita ai volontari delle camicie nere. Per marcarne il carattere fascista, Mussolini ha voluto che alla guerra d'Etiopia vi partecipasse anche il segretario del partito, Achille Starace. Alla testa di una colonna motorizzata composta da volontari della milizia, il 1 aprile del 1936, Starace, dopo aver attraversato un territorio inospitale e pieno di insidie naturali, ma privo di attività nemica, prende l'antica città di Gondar. Gondar è di scarso rilievo strategico, ma in Italia l'impresa viene esaltata come epica. A partire dal febbraio 1936 riprende l'avanzata italiana verso Addis Abeba. Le richieste di rinforzi avanzate da Badoglio sono state tutte soddisfatte. In questo periodo il generale Badoglio può contare su un esercito di circa 400.000 uomini. Uno dei più duri scontri con le forze abissine ha luogo sull'Ambar Adam, un altipiano a circa 800 km da Addis Abeba. Un ruolo di primo piano nella battaglia dell'Ambar Adam è giocato dagli alpini della divisione Pusteria, che arrivano per primi in cima all'altura. Continua la marcia verso la capitale. Badoglio fa marciare in testa le truppe coloniali e gli alpini, gli unici, insieme ai muli, capaci di procedere su un terreno impervio e accidentato. Alla fine dell'avanzata non avevamo più nulla da mangiare. Per giorni avevamo conservato delle gallette dure come sassi che potevamo solo mangiare dopo averle intinte nel tè, ma dopo un po' finirono anche quelle. Un giorno, arrivati in un villaggio, il nostro comandante ci comprò un bue. Ma per nostra sfortuna era mercoledì e la nostra religione non ci consente di mangiare carne né di mercoledì né di venerdì. Alla fine il capitano convocò un prete copto che ci dispensò dai nostri doveri religiosi per quella volta. La protezione degli uomini è affidata all'aeronautica, che provvede anche ai rifornimenti dal cielo. È la prima volta nella storia che gli aeroplani vengono utilizzati a tale scopo. Un giorno vedemmo passare degli aerei che volavano bassissimo. Ci buttavano giù viveri, acqua, munizioni. Gli ostacoli da superare non sono però ancora finiti. Il 31 marzo si combatte la battaglia finale tra le forze italiane e l'ultima e più agguerrita armata abissina. Agli ordini di Haile Selassie, 35.000 abissini attaccano l'avanguardia italiana, composta da 40.000 uomini tra ascari e alpini. È la battaglia di Mai Cheu. Ho sparato 350 colpi, fino a quando, all'improvviso, ho sentito che il comandante del nostro plotone, il tenente Passalacqua, era stato gravemente ferito. Lasciai la mitragliatrice ai miei compagni e mi caricai il tenente sulle spalle e iniziai a farmi strada tra i rovi e le pallottole che fischiavano sopra le nostre teste. Le truppe etiopiche lanciano un attacco frontale, ma vengono prese tra due fuochi, dal cielo con i bombardamenti e da terra dal fuoco dell'artiglieria. Gli abissini sono costretti a ritirarsi. Ma il peggio avviene proprio durante la ritirata. Le truppe coloniali e gli uomini della tribù Galla, noti come feroci tagliatori di teste al soldo degli italiani, aprono una vera e propria caccia all'uomo. È una carneficina. 8.000 truppe etiopiche vengono massacrate dagli italiani e dai loro alleati. È l'ultimo atto di resistenza organizzato dal Negus, il quale riesce fortunatamente a sfuggire alla cattura. La strada per Addis Abeba è aperta. Nel frattempo il generale Graziani è penetrato in Etiopia da sud. Tra Graziani e Badoglio si accende una gara a chi per primo arriverà nella capitale etiopica. Ad avere la meglio sarà Badoglio, che il 5 maggio 1936 entra trionfalmente in Addis Abeba. Il maresciallo Badoglio telegrafa: oggi 5 maggio alle ore 16 alla testa delle truppe vittoriose sono entrato in Addis Abeba. Con la conquista dell'Etiopia e la proclamazione dell'impero, il regime fascista raggiunge il culmine della popolarità. Conquistare la capitale dell'Etiopia, tuttavia, non significa aver soggiogato tutto il paese. I RAS delle armate sconfitte organizzano un movimento di resistenza a cui parteciperanno in tanti. Il 19 febbraio 1937, Rodolfo Graziani, subentrato a Badoglio, è oggetto di un attentato da parte di alcuni indipendentisti. Muoiono 7 alti ufficiali, mentre Graziani rimane gravemente ferito. La rappresaglia è spietata. Migliaia di etiopi, tra cui molti studenti, e almeno 300 intellettuali vengono brutalmente trucidati. Centinaia di case vengono incendiate, numerose attività commerciali distrutte. Neppure i luoghi di culto saranno risparmiati. Penso che l'attentato a Graziani del febbraio del 37 possa essere definito uno dei momenti decisivi dell'occupazione italiana dell'Etiopia. Fino ad allora vi era stata la possibilità che alcuni aristocratici e intellettuali etiopici si arrendessero all'idea dell'occupazione e giurassero fedeltà agli occupanti. L'attentato a Graziani e soprattutto la violenta reazione che ne seguì rese impossibile ogni forma di dialogo. La furia di Graziani si scatena persino contro stregoni, indovini e cantastorie che vengono trucidati a centinaia. Malgrado il pugno di ferro di Graziani, l'Etiopia tuttavia non sarà mai sottomessa completamente. Negli anni successivi alla proclamazione dell'impero, le truppe italiane saranno impegnate a fronteggiare la guerriglia, le cui azioni aumentano di numero ed intensità. La situazione appare fuori controllo. Questo per Mussolini è intollerabile. Alla fine del 1937 si lura Graziani e lo sostituisce con un esponente di Casa Savoia, Amedeo d'Aosta. I venti di guerra che soffiano in Europa fanno passare in secondo piano l'avventura coloniale. Mussolini, per stare al passo con Hitler, trascina l'Italia in un conflitto che segnerà, insieme alla fine dell'impero, quello del regime. Con l'entrata in guerra della Gran Bretagna, la situazione nel Corno d'Africa cambia radicalmente. Il blocco navale inglese impedirà all'Italia il rifornimento delle sue truppe. L'Africa orientale viene gradualmente abbandonata dalle forze armate, che saranno appena in grado di inviare i mezzi necessari per continuare la repressione della guerriglia etiopica, sostenuta con grande impegno dalla Gran Bretagna. L'ultima grande battaglia in Africa orientale italiana si svolge nei pressi della città eritrea di Keren, dove 7 battaglioni italiani e 21 di Ascari resistono all'offensiva inglese per quasi 2 mesi. Alla fine vengono sopraffatti dalla moderna artiglieria e dall'aviazione britannica, che ha il dominio totale dei cieli. La Somalia italiana sarà conquistata il 25 febbraio del 1941 e l'Etiopia il 6 aprile. Due giorni dopo sarà la volta dell'Eritrea. A un certo punto è venuto anche per noi l'ordine di arrendersi. Allora mi sono presentato al mio comandante, che era il maggiore che comandava questo quinto gruppo, e ho detto: guardi, che io non ho nessuna intenzione di arrendermi. Quindi chi mi vuole bene mi segua. La situazione è disperata. Siamo circondati, ma è facile di notte rompere l'accerchiamento e andarsene con pochi uomini. Mi hanno seguito una ventina di persone. E con questi abbiamo cercato di raggiungere l'Ambalaggi, dove ancora il nostro viceré combatteva da eroe, quale era. Il viceré Amedeo d'Aosta organizza un nucleo di resistenza sull'Ambalaggi, un'alta montagna nell'Etiopia settentrionale, dove si arrenderà con l'onore delle armi il 19 maggio. Sarà la fine del sogno imperiale del regime. È durato solo 5 anni. Il 5 maggio del 41 Haile Selassie viene rimesso sul trono. La seconda guerra mondiale farà il resto. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix 24 sul sito www.radio24.it. We'll be right back.